La zia Eugenia entrò per la prima volta nell'ospedale di San José al momento di partorire il suo quinto figlio. Dopo aver lottato 20 ore, aiutata da tutta la famiglia, accettò il rischio di andare in ospedale, visto che nessuno sapeva come far uscire quel bambino che si era incastrato a metà strada. La zia aveva il terrore degli ospedali, convinta com'era che degli sconosciuti non potessero prendersi davvero a cuore persone che vedevano per la prima volta. Era buona amica della sollevatrice, che arrivava sempre in tempo, pulita come un bicchiere appena lavato, dolce e sorridente, abile e fulminea come nessun medico. Arrivava con le sue montagne di panni immacolati e i suoi secchi d'acqua bollita a contemplare il lavoro con cui la zia Eugenia metteva al mondo i suoi figli. Sapeva di non essere la protagonista di quella storia e si limitava a fornire consigli azzeccati e ancor più azzeccati silenzi. La zia Eugenia era la prima a toccare i suoi figli, la prima a baciarli e leccarli, la prima a controllare che fossero interi e ben fatti. Donna Telia interveniva dopo e dirigeva il primo bagno della creatura. Il tutto con una tranquillità contagiosa che rendeva ogni parto un avvenimento quasi gradevole. Con Donna Telia come aiuto non c'era grida, né corse, né paura. Disgraziatamente, però, questa prodigiosa donna non era eterna e 2 mesi prima dell'ultimo parto della zia Eugenia morì. A ogni modo, questa si installò nella sua camera da letto come sempre e chiese aiuto a sua sorella, a sua madre e alla cuoca. Tutto sarebbe andato per il meglio se il bambino non avesse fatto una capriola rimanendo con la testa verso l'alto. Dopo alcune ore di sforzi e maledizioni nell'intimità, chiunque se la sentisse poté passare tra le gambe della zia per vedere di convincere quello stupido moccioso per la vita sarebbe stata bella lontano dalla sua mamma. Nessuno però riuscì a risolvere quel pasticcio. Alla fine il marito prese in mano la situazione e portò la zia all'ospedale. Lì la poveretta cadde nelle mani di 3 medici che la cloroformizzarono per porre fine a ogni discussione e far di lei ciò che volevano. La zia riprese i sensi solo parecchie ore più tardi e chiese subito del suo bambino. Le risposero che era nella nursery. Ancora oggi in ospedale c'è chi ricorda il putiferio che scoppiò allora. La zia trovò la forza di picchiare l'infermiera che uscì di corsa in cerca della caporeparto. Anche la caporeparto ricevette uno spintone e una sfilza di insulti, mentre girava per i corridoi in cerca della nursery. La zia la chiamò cafona, saccente, ridicola, inetta, vigliacca, pazza, demente, possessiva, arbitraria e tanto, ma proprio tanto scema. Alla fine entrò nella saletta, piena di culle, e si diresse senza nessuna difficoltà verso quella di suo figlio. Affondò il viso dentro la cesta e cominciò a dire cose che nessuno capiva. Gli raccontò migliaia di cose, tenendolo abbracciato, finché considerò sufficiente la dose di sussurri. Quindi lo svestì, per contargli le dita dei piedi e controllargli l'ombelico, le ginocchia, il pisellino, gli occhi, il naso. Si succhiò un dito e glielo mise accanto alla bocca, chiamandolo smorfioso. E solo quando lo vide muovere la testa e allungare le labbra in cerca di un capezzolo, respirò soddisfatta. Allora lo prese in braccio, coprendolo di baci, e se lo attaccò al seno sinistro. «Là!» disse. Bisogna venire al mondo con il piede destro e attaccarsi subito alla tetta sinistra, vero amore mio? La caporeparto era più giovane della zia Eugenia e non aveva né marito né figli. Nell'immensa saggezza dei suoi 25 vergini anni, ritenne che la puerpera stesse attraversando una delle molteplici crisi di iperattività e prepotenza di cui una madre ha bisogno per sopportare i primi giorni di allattamento. Così decise di trattare la questione con il marito della signora. Inghiottì gli insulti ricevuti e chiese alla zia se poteva aiutarla a tornare nella sua stanza. La zia rispose che le bastavano le sue 2 gambe e si diresse come un fantasma verso la stanza 311. Il marito di Eugenia era un uomo che dimostrava intelligenza e voglia di vivere nel modo di parlare, ridere, camminare. Negava con gli occhi i suoi 40 anni, a volte lo si sarebbe creduto immortale. Arrivò il pomeriggio a far visita a sua moglie, carico dei soliti fiori, con un disegno da parte di ciascun figlio, dei cioccolatini che le mandava sua madre e 2 scatole di sigari da distribuire tra i visitatori per festeggiare il fatto che il neonato fosse un maschio. Camminava nel corridoio divertendosi al solo pensiero dei 1000 difetti degli ospedali che di sicuro aveva notato sua moglie, quella donna che trovava strana e affascinante, quella quale aveva giurato di trascorrere il resto della sua vita. non solo perché ad un certo momento gli era apparsa come la più bella del mondo, ma anche perché aveva sempre saputo che con lei sarebbe stato impossibile annoiarsi. A metà corridoio fu fermato improvvisamente dalla voce di Georgina Davila. Aveva già sentito parlare di lei, male naturalmente. Agli occhi della gente era mezza pazza, ricca come tutte le persone di cui si parla troppo, e stravagante, perché può essere soltanto una stravaganza mettersi a studiare medicina invece di cercarsi un marito che le desse una ragione di vita. Non le era importato nulla della minaccia di perdere la bella tenuta di Visenzio, né del dolore infinito di sua madre a saperla tra il pus e le ferite di un ospedale, come se la sua famiglia non avesse da offrirle un posto più decente dove stare. In realtà era solo una vanitosa che, avendo già tutto, voleva anche una professione. Perfino padre Mastachi le aveva parlato dei rischi della superbia, ma lei non dava ascolto a nessuno. Si limitava a sorridere, scoprendo un po' i denti da principessa, senza abbassare gli occhi da bella monaca che aveva spezzato tanti cuori. Si era preparata a un sorriso dolce e cauto da tirar fuori davanti a quanti tentavano di convincerla che il matrimonio fosse una professione altruista e bella. Un sorriso che voleva dire, pressappoco, voi non capite nulla, io dunque non mi prendo il fastidio di spiegare. Era chiaro che Georgina Davila faceva già abbastanza fatica a mantenere il posto che le premeva tanto per permettere a una perpetua sboccata di crearle problemi. Così, quando vide il marito, lo aggredì con la lista delle insubordinazioni commesse dalla zia Eugenia e terminò il discorso chiedendogli di moderare la sua signora. «Senta», disse l'uomo con lo sguardo acceso di ironia, «non mi chieda l'impossibile». Georgina acconsentì a capirlo con i suoi gelidi occhi azzurri e il marito della zia si innamorò di colpo di quella freddezza, con la stessa forza con cui aveva sempre amato il calore di sua moglie. «Vado a prendere suo figlio», riuscì a dire la dottoressa Davila, porgendogli una mano che non sentiva sua. Avvertiva una palpitazione nella parte che con tanta dedizione aveva curato in altre donne e soffriva l'orribile pena di sentire giungere il desiderio per la medesima via delle altre. Poco dopo entrò nella stanza portando un bebè con la stessa faccia da patata lessa di tutti gli altri neonati, ma che lei improvvisamente vedeva come un essere luminoso e adorabile. Lo depositò nelle braccia della sua mamma. «È perfetto», disse. «Mi perdoni per stamattina», disse la zia Eugenia, guardando Georgina Davila con occhi gentili. «C'è nulla da perdonare», si sentì dire Georgina. «Lo rifarei», completò la zia Eugenia. «E avrebbe ragione», le rispose Georgina. Quindi le voltò le spalle e se ne andò di corsa a esaminare la sensazione di ignominia che avvertiva in tutto il corpo. Aveva scambiato due parole con il marito di quella signora e le sembrava già una tortura lasciarlo con lei. «Sono una stupida, ho bisogno di dormire», si disse mentre si dirigeva verso la stanza di una donna che al posto del ventre aveva un vulcano in fiamme. Verso mezzanotte tornò dalla zia in cerca del bambino che aveva generato quell'uomo così somigliante al suo nonno materno. Suo nonno era stato l'unico adulto che aveva visto nudo quando facevano la doccia insieme. Suo nonno dalle lunghe gambe che le mostrava il pisello con la stessa naturalezza con cui le lasciava toccare le grandi vene che si indurivano nelle sue mani. Suo nonno che le contava le vertebre sotto l'acqua. «Sei un mucchietto di ossicini», le diceva, «ti dovresti chiamare Ossicini». Quando entrò nella stanza 311, la zia Eugenia dormiva come un angelo esausto. Suo marito non aveva osato spostare il braccio sul quale lei aveva ricaricato per un po' la sua energia inesauribile, fino a perderla del tutto sprofondando nel sonno. Eugenia le tolse il bambino dalle braccia e lo guardò, per non guardare l'uomo che le stava facendo perdere la pazienza. «Sono un miracolo», sentì dire dalla sua voce nella penombra. «È proprio vero», rispose Georgina abbracciando il bambino. 3 giorni più tardi la zia Eugenia uscì dall'ospedale con il suo quinto figlio e con la metà di suo marito. Da un giorno all'altro quell'uomo aveva perduto la certezza della sua felicità senza smagliature, la forza che un tempo l'aveva reso immortale, il dominio delle sue giornate e dei suoi sogni. Da allora visse nell'inferno di nascondere un amore di fronte a un altro e nulla più fu bello per lui. Era a disagio dappertutto e nel suo sguardo si insediò un'irrimediabile nostalgia. Tutta la passione che un tempo lo aveva accompagnato nella vita si spezzò in due e non fu più capace di essere felice né di far felice nessun altro. Per questo, quando nel bel mezzo di un pranzo in famiglia il suo cuore debilitato non resse più la vita in bilico di quegli anni, la zia Eugenia lo portò senza esitare all'ospedale di San José, perché lì ci sarebbe stata Georgina. «Sta per morire?» domandò la zia Eugenia appena furono sole. «Sì», le rispose Georgina. «Quando?» domandò la zia Eugenia. «Tra poco, domani, giovedì», disse la dottoressa affondando i denti nel labbro inferiore. La zia Eugenia fece i quattro passi che le separavano e la abbracciò. Georgina Davila si lasciò cullare e accarezzare come un'orfana. Una settimana più tardi, il cambio delle infermiere le sorprese a piangere entrambe sullo stesso cadavere. A turno avevano vegliato i suoi ultimi sonni, lo avevano cambiato a un cenno del suo sguardo, avevano placato le sue mani e sussurrato parole di perdono nelle sue orecchie. Ognuna delle due gli aveva dato come ultima consolazione la certezza che era impossibile non voler bene all'altra. Nessuno avrebbe potuto essere una compagnia migliore. Nessuno era triste come me, nessuno se non Georgina, raccontava anni dopo la zia Eugenia, ricordando le origini del lungo sodalizio con la dottoressa Davila. Un giorno Natalia Esparza, donna dalle gambe corte e dai seni rotondi, si innamorò del mare. Non sapeva esattamente quanto l'avesse presa quel desiderio indifferibile di conoscere il remoto e leggendario oceano, ma la prese così forte che dovette abbandonare la scuola di piano e lanciarsi alla ricerca del mar caraibico, perché di lì erano venuti i suoi antenati un secolo prima, e lì la spingeva senza pietà quel che chiamò il brandello smarrito della sua coscienza. Il richiamo del mare si fece tanto forte che la sua stessa madre non riuscì a convincerla ad aspettare neppure mezz'ora. Per quanto la pregasse di contenere la sua follia finché le mandorle non fossero pronte per il torrone, finché non avesse finito la tovaglia con le ciliegie che ricamava per le nozze di sua sorella, finché suo padre non avesse capito che non era la lussuria, né l'ozio, né un'incurabile malattia mentale ciò che la rendeva tanto folle d'andarsene all'improvviso. La zia Natalia era cresciuta guardando i vulcani, scrutandoli da mane a sera. Conosceva a memoria le pieghe del petto della mujer dormida e lo scosceso pendio in cui termina il Popocatépetl. Era sempre vissuta su quella terra oscura e sotto quel cielo freddo, cucinando dolce a fuoco lento e carne nascosta sotto i colori di salse complicatissime. Mangiava in piatti dipinti, beveva in bicchieri di cristallo e passava ore seduta davanti alla pioggia, ascoltando le preghiere di sua madre e le favole di suo nonno su draghi e cavalli alati. Ma venne a sapere del mare un pomeriggio in cui certi zii di Campeche si intromisero nella sua merenda di pane e cioccolato, prima di proseguire il cammino verso la città fortificata circondata da un implacabile oceano di colori. 7 tonalità di azzurro, 3 di verde, 1 dorata. Il mare le aveva tutte. L'argento che nessuno si sarebbe portato via, intatto sotto un pomeriggio nuvoloso. La notte, la sfida alla saldezza delle barche, alla padronanza dei marinai. Il mattino come un sogno di cristallo, il mezzogiorno brillante come desideri. Laggiù, pensò Natalia, anche gli uomini dovevano essere diversi. Vicino a quel mare a cui non smetteva di pensare dalla merenda del giovedì, non potevano esserci proprietari di fabbriche, né venditori di riso, né mugnai, né fattori, né altri capaci di rimanersene tranquilli sotto lo stesso cielo per tutta una vita. Avevano fatto tanto parlare, suo zio e suo padre, dei pirati di un tempo, di quelli di adesso, di Don Lorenzo Patigno, nonno di sua madre, che tra le risate avevano soprannominato Lorenzio, quando le aveva raccontato di come fosse arrivato a Campeche con il suo brigantino. Avevano detto tanto delle mani callose e dei corpi vigorosi adatti a quel sole e a quella brezza, e lei era tanto stufa della tovaglia e del pianoforte che partì dietro agli zii senza alcun rimorso. Avrebbe vissuto con gli zii, sperò sua madre, da sola, come un cavallo pazzo, indovinò suo padre. Non conosceva la strada, voleva soltanto arrivare al mare, e al mare arrivò dopo un lungo viaggio, fino a Merida, e dopo una terribile camminata dietro ai pescatori che incontrò al mercato della famosa Città Bianca. Erano un vecchio e un giovane. Al vecchio piaceva conversare e fumare marijuana, al giovane sembrava tutta una follia. Come tornare a Old Box con una donna tanto curiosa e ben fatta? Come lasciarla lì? Piace anche a te, gli aveva detto il vecchio, e lei vuole venire con noi. Non vedi quanto desidera venire? La zia Natalia aveva trascorso tutta la mattina seduta al mercato del pesce, guardando arrivare uno dopo l'altro uomini che scambiavano con qualsiasi cosa i loro animali piatti, dalle ossa e la carne bianca, i loro animali rari, belli e pestilenziali come doveva essere il mare. Si soffermò sulle spalle, sul modo di camminare, sulla voce indignata di uno che non ne vuole sapere di regalare il grosso mollusco che portava. Il prezzo è questo, prendere o lasciare, aveva detto. Prendere o lasciare? E gli occhi della zia Natalia si persero dietro quell'uomo. Il primo giorno camminarono senza sosta, con lei che non faceva che chiedere se era vero che la sabbia del mare era bianca come lo zucchero e le notti calde come l'alcol. A volte si sedeva a massaggiarsi i piedi e i due ne approfittavano per lasciarla indietro. Allora si rimetteva le scarpe e cominciava a correre ripetendo gli improperi del vecchio. Arrivarono soltanto il pomeriggio del giorno seguente. La zia Natalia non riusciva a crederci. Si slanciò verso l'acqua con le sue ultime forze e si mise a piangere sale nel sale. Le facevano male i piedi, le ginocchia, le cosce. Il sole le bruciava le spalle e il viso. Le facevano male i desideri, il cuore e i capelli. Perché piangeva? Sprofondare in quel mare non era forse il suo unico desiderio? La sera cadde lentamente. Sola, sulla spiaggia interminabile, si toccò le gambe. Non erano ancora la coda di una sirena. L'aria era quasi fredda. Si lasciò trasportare dalle onde verso riva. Camminò per la spiaggia, scacciando le minuscole zanzare che le pungevano le braccia. Non molto lontano c'era il vecchio, con gli occhi smarriti in lei. Si buttò con i vestiti bagnati sul bianco letto di sabbia e sentì avvicinarsi il vecchio, che le passò le dita fra i capelli imbrogliati e le spiegò che poteva restare soltanto con lui, poiché tutti gli altri avevano già una donna. Rimango con lei, disse, e si addormentò. Nessuno sa come fu la vita della zia Natalia a Olbox. Tornò a Puebla 6 mesi più tardi, invecchiata di 10 anni, facendosi chiamare la vedova di Ic Yam. Aveva la pelle scura e rugosa, le mani callose e una strana sicurezza nella vita. Non si sposò mai, non le mancò mai un uomo, imparò a dipingere e l'azzurro dei suoi quadri divenne famoso a Parigi e a New York. Visse sempre a Puebla, anche se quella sera, mentre guardava i vulcani, i suoi sogni volavano verso il mare. Si appartiene al luogo in cui si è nati, diceva mentre dipingeva con le sue mani da vecchia e i suoi occhi da bambina. Per quanto tu faccia, ti ci fanno tornare. Il fidanzato di Clemencia Ortega non sapeva che vaso di follia e di passioni stesse scoperchiando quella notte. Lo prese come se fosse marmellata e lo aprì. Ma da quel momento tutta la sua vita, il suo tranquillo andare e venire nel mondo con il suo abito inglese, la sua racchetta da squash, si riempì di quel profumo, di quell'atroce bevanda, di quel veleno. Era graziosa la zia Clemencia, ma sotto i riccioli scuri c'erano dei pensieri e questo alla lunga risultò un problema. Perché al principio erano stati proprio i suoi pensieri e non solo le sue voglie a portarla senza difficoltà al letto clandestino che aveva diviso con il suo fidanzato. A quei tempi, non solo le ragazze poblane ben educate non andavano a letto con i loro fidanzati, ma i fidanzati non passava neppure per la testa di suggerire tale possibilità. Fu la zia Clemencia a sbottonarsi il vestito. Quando da tanto armeggiare di nascosto sentì che i suoi capezzoli si erano fatti appuntiti come due trottole. Fu lei a infilargli le mani nei pantaloni, fino all'incavo in cui gli uomini nascondono il loro talismano, l'animale che offrono quando ne han voglia e che poi si riportano via, indifferente e placato, come se non ci avesse mai visto. Fu lei, senza che nessuno la costringesse, ad avvicinare le mani al respiro irregolare di quel demonio, a volerlo vedere, a volerlo toccare. Così il suo fidanzato non sentì mai la vergogna di chi abusa, né l'obbligo di chi promette. Fecero l'amore nella dispensa, mentre l'attenzione di tutti era per la cugina della zia Clemencia, che quella mattina si era vestita di bianco per sposarsi come Dio comanda. La dispensa era buia e silenziosa alla fine del banchetto, odorava di spezie e noci, di cioccolato, di Oaxaca e peperoncino, di olive e vaniglia, di zucchero grezzo e baccalà. La musica si udiva lontana, frammista alle grida di chi chiedeva che gli sposi si baciassero, che il bouquet andasse a qualche povera racchia, che i suoceri ballassero. Alla zia Clemenza sembrò che non potesse esserci il miglior luogo al mondo per ciò che aveva deciso di avere quel giorno. Fecero l'amore senza giuramenti, senza giravolte, senza l'opprimente responsabilità di sapersi osservati, e furono, quel che si dice, felici per un po'. Hai dell'origano nei capelli? Le disse sua madre, vedendola avvicinarsi a passo di danza alla tavola a cui lei e il papà di Clemenza erano seduti da 5 ore e mezza. Deve essere il bouquet che mi è caduto in testa. Non ho notato che avessi preso tu il bouquet, disse sua madre. Non ti ho neppure vista quando l'hanno lanciato. Ti ho chiamata. Ho preso un altro bouquet, rispose Clemenza con la scioltezza di una bambina bugiarda. Sua madre era abituata a quel tipo di risposte. Per quanto le suonassero del tutto insensate, le attribuiva al disordine mentale che era rimasto in testa alla sua bambina dopo le forti febbri del morbillo. Sapeva anche che la cosa migliore in questi casi era non fare altre domande, per non complicare le cose. Si limitò a pensare che l'origano era un'erba preziosa, alla quale non si era fatta abbastanza giustizia in cucina. Nessuno ha mai pensato di metterlo nei dolci, disse a voce alta per finire la sua riflessione. Com'è graziosa Clemenza quando balla, commentò la sua vicina di posto e si misero a chiacchierare. Quando il fidanzato a cui la zia Clemenza si era donata nella dispensa la volle sposare, lei gli rispose che questo era impossibile. E glielo disse con tanta serietà che lui pensò si fosse risentita perché invece di chiederglielo prima aveva aspettato un anno di profumi furtivi, durante il quale aveva consolidato i suoi affari, aprendo una catena di 6 panetterie che vendevano pane bianco e pane dolce, oltre a 2 pasticcerie. Ma non era per questo che la zia Clemenza si negava, bensì per una serie di ragioni che con lui non aveva mai avuto tempo né necessità di spiegare. Credevo che tu avessi già capito molto tempo fa, gli disse. Ma capito che cosa? Domandò l'altro. Che non pensavo di sposarmi neppure con te. Ma non ti capisco, le disse il fidanzato, che era un uomo qualunque. Vuoi rimanere una puttana per tutta la vita? Quando la zia Clemenza udì quelle parole, si pentì in un istante di tutte le ore, i pomeriggi e le sere che aveva regalato a quello sconosciuto. Non ebbe neppure la forza di sentirsi offesa. Vattene, gli disse. Vattene prima che ti chieda tutti i soldi che mi devi. Lui ebbe paura e se ne andò. Poco tempo dopo si sposò con la figlia di Certi Asturiani, battezzò 6 figli e lasciò che col tempo i suoi ricordi ammuffissero come l'acqua stagnante sulle pareti di una fontana. Diventò un accanito fumatore di sigari, un bevitore abituale, un insonne che non sapeva che farsene delle ore dell'alba, un insaziabile uomo d'affari. Parlava poco. Il sabato pomeriggio andava al club di tiro con 2 amici, ma la stizza che lo paralizzava quando si faceva sfuggire più di 2 piccioni era il sentimento più intimo che riusciva a confidare. Si annoiava. Un martedì mattina, 19 anni dopo aver perduto il profumo e le labbra della zia Clemenza, un yucatano gli propose di acquistare il negozio di alimentari meglio fornito della città. Andarono a vederlo. Entrarono dal retrobottega, uno stanzone pieno di granaglie, sacchi di zucchero e farina, cereali, cioccolato, erbe aromatiche, peperoncini e altri prodotti per riempire dispense. Di colpo l'uomo avvertì un rimestio in tutto il corpo. Tirò fuori il libretto degli assegni per comprare il negozio senza averlo visto per intero. Non discusse il prezzo e si avviò di corsa verso la casa dove ancora viveva la zia Clemenza. Quando l'avvertirono che c'era un signore che voleva vederla, lei scese di corsa le scale che portavano a un patio pieno di uccelli e di fiori. Lui se la vide venire incontro ed ebbe l'impulso di baciare la terra che calpestava quella dea d'armonia in cui si era trasformata quella Clemenza 39enne. Se la vide venire incontro e avrebbe voluto scomparire sentendosi brutto e invecchiato. Clemenza avvertì il suo turbamento, lo compatì per la sua pancia, per la sua calvizie incipiente, per le occhiaie gonfie, per la smorfia di tedio stampata sul suo viso. Siamo diventati vecchi, gli disse per solidarietà. Non merito la tua pietà, sono stato uno stupido e mi si vede in tutto il corpo. Io non ti amavo per la tua intelligenza, disse la zia Clemenza con un sorriso. Però smettessi di amarmi per la mia idiozia, disse lui. Io non ho mai smesso di amarti, disse la zia Clemenzia. Non mi piacciono gli sprechi, tantomeno lo spreco di sentimenti. Clemenzia, disse l'uomo tremando per la sorpresa, dopo di me hai avuto 12 fidanzati. Continua ad amare tutti e 12, replicò la zia Clemenzia, slacciandosi il grembiule che portava sopra il vestito. Come? Disse il povero uomo. Con tutto il mio cuore, rispose la zia Clemenzia, avvicinandosi al suo ex fidanzato, finché lo sentì tremare come sapeva che stava tremando. Andiamo, disse poi, prendendolo sotto braccio per uscire. Allora lui smise di tremare e la portò in fretta al negozio che si era appena comprato. Spegni la luce, pregò Clemenzia quando entrarono nel negozio e si trovarono avvolti nell'aroma dell'origano. Lui allungò un braccio dietro di lei e nell'oscurità risalì i 20 anni di assenza che smisero di pesargli addosso. 2 ore più tardi, mentre toglieva l'origano dai ricci scuri dell'anzia Clemenzia, tornò a pregarla. Sposami. La zia Clemenzia lo baciò lentamente e si rivestì in fretta. Dove vai? Le domandò lui quando la vide dirigersi verso la porta salutandolo con la mano. Al giorno dopo questo, disse la zia guardando l'orologio. Però mi ami, disse lui. Sì, rispose la zia Clemenzia. Più di chiunque altro? Domandò lui. Uguale, disse la zia. Sei una... cominciò a dire lui quando Clemenzia lo interruppe. Attento a quel che dici, perché ti chiedo tutto quel che mi devi e non ti basterebbero le 30 panetterie. Quindi aprì la porta e se ne andò senza volere sentire altro. La mattina seguente Clemenzia Ortega ricevette gli atti di proprietà di 30 panetterie e di un negozio di generi alimentari. Nella busta c'era anche un biglietto che diceva: Sei una testarda.